Conversazioni con i maestri e le guide sul cielo. Capitolo 1. Amare noi stessi. Introduzione. L'amore verso voi stessi è al centro di tutto. Siamo felicissimi di essere chiamati su Gaia, e di essere in vostra compagnia. Siamo qui per facilitare il ricordo di chi siete veramente. Siamo qui per mostrarvi l'essenza vera che risiede dentro ognuno di voi. Siamo qui per aiutarvi a ritrovare la vostra nota originaria, quella risonanza comune a tutti, alla quale potete accordarvi in ogni ora, creando così, se ci permettete l'espressione un po' scherzosa, musica per le vostre orecchie celesti. Desideriamo iniziare queste conversazioni parlando dell'amare noi stessi. Perché questo argomento? Perché senza l'amore verso noi stessi non ci permetteremo mai di essere veramente felici. Queste non sono parole vuote. Chiedetevi. Che cosa significa amare voi stessi? Cosa vi è stato insegnato dai genitori, dalla società, dalla scuola, dalla religione? Che cosa risuona dentro di voi, e come vi sentite interiormente, quando vengono sussurrate al vostro orecchio queste qualità, divini, amabili, degni, meritevoli, prosperi, felici, gioiosi? Riuscite a credere davvero, senza ombra di dubbio, di essere creatori, e liberi di essere tutto ciò che desiderate, al comando della vostra vita, completamente indipendenti, con il potere di modellare la vostra esperienza terrena nel modo che vi piace di più? Vi amate? Siete coraggiosi abbastanza da lasciare andare tutto ciò che vi blocca dal vivere la vita che vi siete immaginati? Che cosa rispondete alle seguenti affermazioni? Accettatevi così come siete, senza criticarvi mai, amando ogni piccola parte di voi stessi, sapendo che state facendo del vostro meglio in ogni ora, sapendo che l'opinione altrui non conta nulla, ma solo quella che avete di voi stessi. Questo è il vero coraggio. Permetterci di essere felici. Riconoscere la nostra natura di creatori, e riappropriarci del nostro potere interiore. Il nostro messaggio primario è di amore incondizionato. Questo universo vi ama e vi supporta incondizionatamente, rispondendo ad ogni richiesta in armonia con il vostro cuore. È infatti nel cuore che il vostro io interiore ed espanso risiede. Siamo qui per dirvi che l'amore verso voi stessi è al centro di tutto. Siamo qui per ricordarvi che ogni qualvolta vi date addosso, negate l'infinità di chi siete veramente. C'è solo amore ed espansione gioiosa. Guide e maestri.